inevitabile. Noi è povertà, giungla di parabole, polvere dagli occhi rosa, morte affinità. In ipnosi come automi tra gli ostacoli, orologio rende suscettibili, come voglia di dimenticare tutto qui, la disciplina nel sembrare più invincibili. Respirando piano i sogni per rinascere, nascosti nei riflessi, desideri e polvere, imprese e produzioni, zero lotte aridità. Incendiamo piano piano, incendiamo piano piano, il sogno padano che tramonterà. C'è troppa luce, ora troppa verità, un sole nero che circonda la città. C'è troppa pace, ancora troppa gravità, aria irrespirabile, invasioni, crudeltà. C'è troppa noia, ora troppa impurità, un mare nero che travolge la città. C'è troppa calma, ancora troppa densità, aria inabitabile, miseria estetica. Assurdità, tengo il tempo, lotto forte, sento il dito della morte. Gas a palo, cassa dritta per l'ennesima sconfitta. Ecco l'alba, niente sonno, il mio amore porno.